Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Sesta puntata. Me ne andavo barcollando per le strade di Città del Messico. E una volta sentii che qualcuno mi seguiva. Non so dove eravamo. Forse in un bar nei dintorni di la villa o forse in qualche bettola del quartiere Guerrero. Non mi ricordo. So solo che continuai a camminare, facendomi strada fra le macerie, senza prestare troppa attenzione ai passi che seguivano i miei passi, finché di botto il sole notturno si spense. Smisi di piangere. Tornai alla realtà con un brivido e capii che chi mi seguiva desiderava la mia morte, o la mia vita, o le mie lacrime che aspergevano quella realtà odiosa come la nostra lingua così spesso avversa. E allora mi fermai e aspettai. E i passi che seguivano i miei passi si fermarono e aspettarono. E io guardai le strade in cerca di qualche conoscente o qualche sconosciuto verso il quale correre gridando per attaccarmi al suo braccio e chiedergli di accompagnarmi a una stazione della metropolitana o al primo taxi, ma non vidi nessuno. O forse no. Qualcosa vidi. Chiusi gli occhi e poi aprii gli occhi e vidi le pareti coperte di piastrelle bianche del bagno delle donne al quarto piano. E poi richiusi gli occhi e sentii il vento che spazzava il campus della facoltà di lettere e filosofia con una meticolosità degna di miglior causa. E pensai, così è la storia. Un breve racconto del terrore. E quando aprii gli occhi, un'ombra si staccò dal muro, sullo stesso marciapiede, a una decina di metri, e cominciò ad avanzare verso di me. E io infilai la mano nella mia borsa. Che dico borsa? Nel mio zainetto di Oaxaca. E cercai il coltello, quello che mi portavo sempre dietro in previsione di qualche catastrofe urbana. Ma le punte delle dita, i polpastrelli in fiamme, palparono solo carte e libri e riviste e persino biancheria intima pulita, lavata a mano, senza sapone, solo con acqua e buona volontà, in uno dei lavandini di quel quarto piano ubiquo come un incubo. Però il coltello, ai amici miei, ecco un altro terrore ricorrente e mortalmente latinoamericano: cercare la tua arma e non trovarla, cercarla dove l'hai lasciata e non trovarla più. È così che ci vanno le cose a noi. E così potevano andare a me. Ma quando l'ombra che voleva la mia morte, e se non la mia morte almeno il mio dolore e la mia umiliazione, cominciò ad avanzare verso l'androne dove mi ero nascosta, spuntarono altre ombre da quella strada che si sarebbe potuta trasformare nella sintesi delle mie strade del terrore, e mi chiamarono: «Auxilio! Auxilio! Socorro! Amparo! Caridad! Remedios locutur! Dove ti sei cacciata?» E fra quelle voci che mi chiamavano riconobbi la voce del malinconico e intelligente Julián Gomez, e l'altra, più ilare, era quella di Arturito Belano, pronto come sempre alla zuffa. E allora l'ombra che cercava la mia afflizione si fermò. Si guardò alle spalle e poi riprese ad avanzare e mi passò accanto, un tipo come tanti, un messicano uscito dal Tartaro. E insieme a lui passò una folata d'aria fresca e leggermente umida che evocava geometrie instabili, che evocava solitudini, schizofrenie e carneficine. e quel perfetto figlio di puttana non mi guardò neppure. Poi andammo in centro, tutti e tre insieme, e Julian Gomez e Arturito Belano continuavano a parlare di poesia, e all'encrusciada veracruzana si unirono a noi altri due o tre poeti, o forse solo giornalisti o futuri insegnanti di liceo, e tutti continuavano a parlare di poesia, di nuova poesia, ma io non parlavo, io ascoltavo i battiti del mio cuore, impressionata dall'ombra che mi era passata accanto e di cui non avevo fatto parola. E non mi accorsi che il dialogo si trasformava in discussione, la discussione in grida e insulti. Poi ci cacciarono dal bar. Poi ci mettemmo a camminare per Città del Messico, per le strade vuote delle 5 del mattino. E a uno ci disperdemmo. Ognuno a casa sua, anch'io, che in quel periodo stavo in un abbaino nel quartiere Roma Norte, in Calle Tabasco. E siccome Arturito Belano viveva nel quartiere Juarez, in Calle Versailles, ci avviammo insieme, anche se lui, secondo il manuale delle giovani marmotte, avrebbe dovuto girare verso ovest, in direzione della Glorieta de Insurgentes, o della Zona Rosa, perché viveva proprio all'angolo di Calle Versailles e Calle Berlin. Mentre io dovevo proseguire verso sud, ma Arturito Belano preferì deviare un po' e tenermi compagnia. E a quell'ora della notte, a dire il vero, nessuno dei due era molto in vena di chiacchiere. E pur parlando ogni tanto della lite all'encrusciada veracruzana, più che altro camminavamo e respiravamo, come se all'alba l'aria di Città del Messico si fosse fatta più pura, finché all'improvviso, con la sua voce più spensierata, Arturito disse che si era preoccupato per me in quel buco di la villa. Ergo era successo alla villa. E allora io gli chiesi perché, e lui disse perché aveva visto anche lui, angioletto mio, l'ombra che seguiva la mia ombra. E io, tranquilla e serena, lo guardai, mi portai una mano alla bocca e gli dissi: era l'ombra della morte. Allora lui rise, perché non credeva all'ombra della morte, ma la sua risata, anche se scettica, non fu affatto offensiva. La sua risata era come dire: che botta, Auxilio, che brutta storia quell'ombra. E io mi portai di nuovo la mano alla bocca e mi fermai e gli dissi: se non fosse stato per te e per Julian, io adesso sarei morta. E Arturito mi ascoltò e poi riprese a camminare, e io ripresi a camminare al suo fianco. Così, senza rendercene conto, fermandoci a parlare o camminando in silenzio, arrivammo al portone del palazzo dove vivevo, e tutto finì lì. Poi, nel 1973, lui decise di tornare in patria a fare la rivoluzione, e io fui l'unica, a parte la sua famiglia, a salutarlo alla stazione dei Pullman, perché Arturito Belano partì via terra, un viaggio lungo, lunghissimo, infestato di pericoli, il viaggio iniziatico di tutti i poveri ragazzi latinoamericani attraversare questo continente assurdo che capiamo a stento o non capiamo per nulla. E quando Arturito si affacciò al finestrino del Pullman per farci ciao con la mano, non pianse solo sua madre, piansi anch'io. Inspiegabilmente mi si riempirono gli occhi di lacrime, come se quel ragazzo fosse anche figlio mio, e temessi di non vederlo più. Quella notte dormì a casa della sua famiglia, più che altro per tenere compagnia alla madre, e ricordo che parlammo fino a tardi di cose da donne, anche se i miei argomenti di conversazione non sono esattamente quelli tipici delle donne. Parlammo dei figli che crescono e se ne vanno a giocare nel vasto mondo, parlammo della vita dei figli che si separano dai loro genitori e vanno in cerca dell'ignoto nel vasto mondo. Poi parlammo del vasto mondo in sé per sé, un vasto mondo che per noi in realtà non era così vasto. E poi la mamma di Arturo mi fece i tarocchi e me li lesse e disse che la mia vita sarebbe cambiata. E io dissi: che bello, guarda, non sai quanto mi farebbe bene un cambiamento adesso. E poi preparai il caffè. Non so che ora fosse, ma era molto tardi e dovevamo essere tutte e due stanche, anche se non lo lasciavamo trasparire. E quando tornai in salotto trovai la madre di Arturo che si faceva le carte da sola, su un tavolinetto basso che c'era lì. E senza dire nulla rimasi un momento a osservarla. Se ne stava seduta sul divano con un'aria concentrata sul viso, anche se dietro la concentrazione si scorgeva un filo di perplessità. Mentre le sue mani piccole spostavano le carte come se fossero staccate dal corpo. Si stava facendo i tarocchi da sola, me ne accorsi subito. E quello che usciva sulle carte era terribile. Ma non era questa la cosa più importante. L'importante era qualcosa un po' più difficile da afferrare. L'importante era che mi aspettava, sola. L'importante era che non aveva paura. Quella sera mi sarebbe piaciuto essere più intelligente di quello che sono. Mi sarebbe piaciuto essere capace di consolarla. Invece l'unica cosa che riuscii a fare fu portarle il caffè e dirle di non preoccuparsi, che sarebbe andato tutto bene. La mattina dopo me ne andai, anche se in quel periodo non avevo un posto dove andare, tranne la facoltà e i bar e i caffè e le bettole di sempre. Ma me ne andai lo stesso. Non mi piace abusare. Quando Arturo tornò in Messico nel gennaio del 1974, era ormai un altro. Allende era caduto e lui aveva fatto il suo dovere, così mi raccontò la sorella. Arturito aveva fatto il suo dovere e la sua coscienza, la sua terribile coscienza di piccolo macio latinoamericano, in teoria non aveva nulla da rimproverarsi. Quando Arturo tornò in Messico, per tutti i suoi vecchi amici era ormai uno sconosciuto, tranne che per me, perché io non avevo mai smesso di passare da casa sua per avere notizie. Io ero sempre stata lì, con discrezione. Non restavo più a dormire, facevo solo un salto, mi trattenevo un pochino a chiacchierare con sua madre o sua sorella. Con suo padre no, perché non mi amava molto. E poi me ne andavo e non tornavo prima di un mese. Così avevo saputo delle sue avventure in Guatemala, nel Salvador, dove si era fermato parecchio tempo a casa del suo amico Manuel Sorto, che era stato anche amico mio, in Nicaragua, in Costa Rica, a Panama. A Panama aveva litigato con un nero del posto per una stupidaggine. Quanto ridemmo sua sorella ed io leggendo quella lettera. Il nero, secondo Arturo, era alto 1,90 m e doveva pesare 100 kg, mentre lui era alto 1,76 m e non arrivava a 65 kg. Poi aveva preso una nave a Cristobal e la nave, attraverso l'Oceano Pacifico, l'aveva portato in Colombia, in Ecuador, in Perù e alla fine in Cile. Incontrai sua sorella e sua madre alla prima manifestazione che si fece in Messico dopo il golpe. All'epoca non sapevamo nulla di Arturo e tutte noi temevamo il peggio. Ricordo quella manifestazione. Può darsi che fosse la prima organizzata in America Latina per la caduta di Allende. Là vidi facce note del 68 e alcuni irriducibili della facoltà e soprattutto vidi giovani messicani generosi. Ma vidi anche qualcos'altro. Vidi uno specchio e infilai la testa dentro lo specchio e vidi una valle enorme e disabitata, e la vista della valle mi riempì gli occhi di lacrime, fra i vari motivi perché a quel tempo non smettevo mai di piangere per le questioni più insignificanti. La valle che vidi però non era una questione insignificante. Non so se era la valle della felicità o la valle della sventura, ma la vidi. E poi vidi me stessa, chiusa nel bagno delle donne, e mi ricordai che là dentro avevo sognato la stessa valle, e al risveglio da quel sogno o da quell'incubo mi ero messa a piangere. O forse furono le lacrime a svegliarmi. E in quel settembre del 73 rispuntava il sogno del settembre del 68. E questo di sicuro qualcosa voleva dire. Cose così non sono certo fatti fortuiti. Nessuno esce indenne dalle concatenazioni o dalle permutazioni o dalle disposizioni del caso. Forse Arturito è già morto, pensai. Forse quella valle solitaria è l'immagine della valle della morte. Perché la morte è il bastone dell'America Latina. E l'America Latina non può camminare senza il suo bastone. Ma poi la madre di Arturo mi prese per il braccio. Io ero come stordita. E avanzammo tutte insieme gridando: «El pueblo unido jamás sarà vencido!» Se ci penso, mi vengono un'altra volta le lacrime agli occhi. 2 settimane dopo parlai con sua sorella per telefono e lei mi disse che Arturo era vivo. Respirai, che sollievo. Ma dovevo proseguire. Io ero la madre itinerante, quella di passaggio. La vita mi imbarcò in altre storie. Una sera, mentre osservavo coi gomiti appoggiati a un mare di tequila un gruppo di amici che cercava di rompere una pentolaccia nel giardino di una casa del quartiere Ansures, mi venne in mente che quello era il periodo migliore per chiamare. E mi rispose sua sorella con la voce assonnata. «Buon Natale!» le dissi. «Buon Natale!» disse lei. Poi mi domandò dov'ero. «Da amici!» risposi. «E Arturo?» «Tornerà il mese prossimo. Che giorno?» domandai io. «Non lo sappiamo», disse lei. «Mi piacerebbe andare a prenderlo all'aeroporto», dissi io. Poi restammo tutte e due zitte ascoltando i rumori della festa che arrivavano dal cortile della casa dove mi trovavo. «Ti senti bene?» mi chiese sua sorella. «Mi sento strana», dissi io. «Ma per te è normale», disse lei. «Tanto normale no», replicai. «La maggior parte delle volte mi sento benissimo». La sorella di Arturo rimase un momento in silenzio e poi disse che in realtà quella che si sentiva strana era lei. «E perché?» dissi io. La domanda era puramente retorica. La verità è che avevamo tutte e due motivi più che sufficienti per sentirci strane. Non ricordo la sua risposta. Ci augurammo di nuovo buon Natale e poi riattaccammo. Pochi giorni dopo, nel gennaio del 74, arrivò Arturito dal Cile e ormai era un altro. Voglio dire, lui era lo stesso di sempre, ma sotto sotto qualcosa era cambiato. O era cresciuto, o era cambiato e cresciuto allo stesso tempo. Voglio dire, la gente, i suoi amici, cominciarono a guardarlo come fosse un altro, anche se era lo stesso di sempre. Voglio dire, tutti, in qualche modo, ci aspettavamo che aprisse bocca e raccontasse le ultime notizie dall'orrore. Ma lui restava in silenzio, come se quello che si aspettavano gli altri si fosse trasformato in un linguaggio incomprensibile, o come se non gliene fregasse un cazzo. E allora i giovani poeti messicani, tutti più grandi di lui, smisero di essere i suoi migliori amici e Arturito cominciò a frequentare i giovanissimi poeti messicani, tutti più piccoli di lui, ragazzini di 16-17 anni, ragazzine di 18, che sembravano usciti dal grande orfanotrofio che è la metropolitana di Città del Messico e non dalla facoltà di lettere e filosofia. Esseri in carne e ossa che a volte vedevo dietro ai vetri dei caffè e dei bar di Avenida Bucareli e la cui semplice vista mi dava i brividi, come se non fossero persone in carne e ossa, ma una generazione uscita direttamente dalla ferita aperta di Tlatelolco. Come formiche, o come cicale, o come pus, anche se non avevano preso parte ai fatti di Tlatelolco né alle lotte del 68, perché quando io ero rinchiusa dentro l'università nel settembre del 68 loro erano bambini che non avevano nemmeno cominciato il liceo. Ed erano quelli i nuovi amici di Arturito. E io non ero immune alla loro bellezza. Io non sono immune a nessun tipo di bellezza. Ma mi resi conto, mentre tremavo vedendoli, che il loro linguaggio era un altro, diverso dal mio, diverso da quello dei giovani poeti. Ciò che dicevano, poveri uccellini orfani, non l'avrebbe capito José Agustín, il romanziere di moda, e nemmeno i giovani poeti che volevano massacrare José Emilio Pacheco, né José Emilio, che sognava l'incontro impossibile fra Dario e Huidobro. Nessuno poteva capirli. Le loro voci, che non sentivamo, dicevano: noi non siamo di questa parte di Città del Messico. Noi veniamo dalla metropolitana, dai sotterranei di Città del Messico, dalla rete delle fogne. Noi viviamo là dove è più buio e più sporco, dove il piuttosto dei giovani poeti non potrebbe far altro che vomitare. A pensarci bene, era normale che Arturo si allontanasse gradualmente dai vecchi amici e si unisse a loro. Erano i bambini delle fogne e Arturo era sempre stato un bambino delle fogne. Uno dei suoi vecchi amici, però, non si allontanò da lui, Ernesto San Epifanio. Io conobbi prima Arturo, poi Ernesto San Epifanio, in una serata radiosa del 1971. All'epoca Arturo era il più giovane del gruppo. Poi arrivò Ernesto, che era di un anno o qualche mese più giovane, e Arturito perse quel posto d'onore equivoco e brillante. Ma fra loro non nacque alcun genere di invidia, e quando Arturo tornò dal Cile nel gennaio del 74, Ernesto San Epifanio continuò a essergli amico. Quello che accadde fra loro è piuttosto curioso, e io sono l'unica che può raccontarlo. Ernesto San Epifanio, a quel tempo, aveva l'aria di essere malato. Non mangiava quasi nulla e si stava riducendo pelle e ossa. La sera, quelle sere di Città del Messico coperte da strati di lenzuola di lino, beveva soltanto e parlava malapena, e quando uscivamo per strada guardava da tutte le parti come se avesse avuto paura di qualcosa. Quando però gli amici gli chiedevano qual era il problema, non diceva nulla o rispondeva con qualche citazione di Oscar Wilde, uno dei suoi scrittori preferiti. Ma le sue forze languivano anche in quello, nella capacità di essere brillante. E sulle sue labbra una battuta di Wilde, più che far riflettere, risvegliava una certa perplessità e commiserazione. Una sera gli diedi notizie di Arturo, avevo parlato con sua madre e sua sorella, e lui mi ascoltò come se vivere nel Cile di Pinochet non fosse in fondo una cattiva idea.